prendiamo una persona come Paolo, ragazzo giovane, robusto. Immaginate di mettergli sulle spalle un peso di 50 kg. Forte, robusto. Ma pensate che se tutto il giorno cammina con questo sacco di 50 kg sarà... come sarà questa sera? E se lui non sa che il sacco di 50 kg a renderlo così affaticato, cosa penserà di sé? Perché chiunque gli passa da altri, gli passano davanti con tutta tranquillità, se lui non lo sa che è un sacco pesante. Okay. La buona notizia quindi è che abbiamo dei grossi handicap, tutti, nessuno escluso, che bloccano la nostra evoluzione. Qual è la buona notizia? Che abbiamo un potenziale infinitamente più grande di quel che crediamo, ma proprio infinitamente più grande, non c'è paragone. Lo si vede nelle attività dove si è in contatto con cose che si vede, che si tocca, che si sente. Se prendete una persona, la portate in, una persona qualunque, la portate in montagna per la prima volta, una persona che non ha mai camminato, dopo che ha fatto 300 metri di dislivello, c'ha la lingua fuori così e crederà che non è adatto a camminare, che non è una persona, cioè è diverso dagli altri. Se però la tenete in montagna un mese e questa persona pian pianino tutti i giorni fa qualcosa in più, può succedere che alla fine del mese è diventato quasi un alpinista, cioè fa delle cose che all'inizio non sognava nemmeno di notte. Quindi le potenzialità umane sono veramente straordinarie. Questo anche nel campo creativo. C'è, chi di voi ha studiato musica? C'è qualcuno? Beh, il primo gruppo. Tu no? Nessuno. Di solito nei nostri gruppi ci sono un sacco di musicisti. Okay. Bene. Anche in quel settore lì ci sono persone, per esempio ci sono tanti pianisti che hanno studiato 10 anni e che poi smettono di suonare, hanno dedicato 10 anni della loro vita, tutto l'impegno, giorno, tutto il giorno, e dopo 10 anni, mola. Cos'è dovuto questo? Com'è possibile che una persona dedichi 10 anni della propria vita a un'attività che poi smette? È arrivato un tale scoraggiamento interno, un tale autoboicottamento, per cui la persona butta via 10 anni di lavoro. Bene, se questa stessa persona si riesce a togliere dalle sue spalle questo peso, si rimette a suonare e ottiene risultati che prima manco si sognava. Prima non poteva ottenere risultati perché era tutto bloccato. Ha ottenuto il diploma di pianoforte, ma ha fatto talmente tanta fatica perché era tutto bloccato che non vedeva l'ora di finire. La stessa cosa avviene negli studi universitari.